Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sette 08:30, buona serata da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia per la giornata economico-finanziaria. Cominciamo subito con la borsa. Anche oggi sui mercati finanziari abbiamo visto davvero di tutto. La mattinata era partita malissimo sui listini del vecchio continente, in risposta di nuovo a quanto accaduto ieri sera a Wall Street e stamattina sui mercati asiatici. Poi però la volatilità ha preso il sopravvento e gli indici sono tornati a recuperare molto terreno. Addirittura il mercato americano, che perdeva un punto, è arrivato a guadagnare 3 punti sul Dow Jones. Insomma, un copione che continuiamo a leggere ogni giorno. Gli sbalzi d'umore della borsa sono all'ordine del giorno e in ogni caso quello che oggi è successo ci porta a concludere la giornata in questa maniera, anche se ancora, per la verità, per l'Europa ci vuole ancora una mezz'ora di tempo prima della chiusura definitiva. Abbiamo in questo momento Parigi fotografata più 0,19, Francoforte meno 1,36, Londra più 0,58, Milano meno 0,11 sull'S&P MIB, meno 0,20 sul MIPTEL. Pensate che il Dow Jones, che il DAX a Francoforte, che adesso perde circa un punto, è arrivato a perdere più di 4 punti questa mattina, poi li ha recuperati tutti, addirittura ha fatto una puntata anche in territorio positivo, adesso invece riperde. A Wall Street, complici le trimestrali negative, i dati economici che non sono per niente incoraggianti. Oggi abbiamo i sussidi settimanali alla disoccupazione che sono risultati ben peggiori delle attese. In ogni caso, oggi il mercato americano tenta di recuperare un po' del terreno tantissimo che ha perso negli ultimi 2 giorni e, dicevamo, dopo una partenza molto brusca, adesso recupera 1 punto sul Nasdaq, quasi 2 punti sull'S&P 500 e il Dow Jones in rialzo del 2,44%. Quindi, insomma, partiremo, ovviamente racconteremo anche questa giornata di borsa, in parte l'ho già fatto, ma oggi andremo ad analizzare in apertura Focus Economia anche un altro pericoloso e per certi versi anche un po' inquietante focolaio di crisi che si sta aprendo. Riguarda alcune economie dell'Est Europa. A questo punto, dopo la crisi finanziaria che si è trasferita sull'economia reale, bisogna ancora quantificare quanto il tessuto industriale appunto sta subendo il peso del credit crunch. Ebbene, dicevamo, adesso c'è addirittura chi comincia a parlare di possibili bancarotte degli stati sovrani, uno scenario ovviamente molto preoccupante. Al momento sono solo voci che si rincorrono, ma purtroppo abbiamo visto anche quanto pericolosamente negli ultimi 2 anni molte voci che circolavano sui mercati appunto poi si sono tramutate in realtà. In ogni caso c'è questo focolaio, chiamiamolo così, in Argentina. Il paese ha nazionalizzato i fondi pensione e questo è presagio, secondo molti osservatori, di una bancarotta delle casse pubbliche del governo latinoamericano. Ma come dicevamo, c'è una grande attenzione in questo momento anche alcune aree dell'est Europa. Si parla molto di Ungheria, si parla dell'Ucraina, della Bielorussia. Insomma, faremo il punto della situazione con un esperto di queste aree per capire come mai questi stati stanno subendo in maniera così pesante la crisi finanziaria internazionale. Parleremo poi dell'iniziativa francese del presidente Sarkozy, che ha deciso di attivare un fondo di investimento per sostenere le imprese francesi. Qualcuno l'ha chiamato un fondo sovrano, non è esattamente così, perché i fondi sovrani si alimentano e sostengono l'economia, almeno nei paesi arabi che hanno questa prassi e questa abitudine, in maniera molto diversa. Ma cercheremo di capire qual è l'obiettivo anche di questa iniziativa francese, se si può replicare anche in altre aree economiche dell'Eurozona. Della borsa, dicevamo, parleremo con i casi del giorno, faremo una puntata tra virgolette, nel senso che andremo negli Stati Uniti, perché proprio da là che sono stati divulgati i conti di Fiat, che perde il 3%, è arrivata a perdere il 6% questa mattina, perché effettivamente Marchionne, l'amministratore delegato, ha voluto anche disegnare agli analisti finanziari lo scenario possibile peggiore per il 2009 dei conti del Lingotto, e i vertici di Fiat hanno detto: da qui in avanti comunicheremo tempestivamente al mercato la situazione della società ogni trimestre. Quindi, insomma, stato d'allerta, massima attenzione sull'impatto anche in questo caso del credit crunch sui conti del Lingotto e sull'industria automobilistica, che comunque è uno dei settori che risente di più sicuramente della recessione economica. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Parleremo anche, se avremo delle novità, perché tra qualche minuto, intorno alle 17.30 dovremo iniziare la conferenza stampa del ministro Brunetta per fare il punto sul rinnovo del contratto nel pubblico impiego. Oggi è stata una giornata di diversi incontri e vedremo quali novità arriveranno da Palazzo Chigi in questo senso. Per adesso andiamo a vedere anche però le altre notizie della giornata. Il petrolio è tornato a guadagnare terreno e ha sfiorato i $68 al barile. Siamo comunque, insomma, su livelli che ancora accettiamo di buon grado. Dopo le parole del presidente dell'OPEC, Chakib Khalil, secondo cui il cartello che si riunisce domani, l'OPEC appunto, taglierà la produzione di greggio. I futures del petrolio a New York hanno toccato i $67.93 al barile dopo un minimo che invece aveva raggiunto i $65.90. L'Italia importa l'86% del proprio fabbisogno energetico. La bolletta dell'energia a fine 2008 supererà i 60 miliardi di euro. Lo ha detto nel corso del suo intervento ad un convegno Filcem CGL il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola, sottolineando come queste cifre pesino su tutto il comparto produttivo. Saldo commerciale con i paesi extra europei a settembre, per quello che riguarda il nostro paese, è risultato negativo per 3.274 milioni di euro, in peggioramento rispetto al disavanzo di circa 2.100 milioni di euro registrato al settembre del 2007. Su base annua gli scambi sono aumentati del 13,4% per quello che riguarda le esportazioni e del 20,3% per le importazioni. Contratto degli statali, anticipavamo qualcosa qualche minuto fa, l'aumento medio mensile proposto oggi dall'ARAN per gli statali, l'agenzia appunto del pubblico impiego, su indicazione del governo è di 70 euro a regime, di cui 60 sul salario tabellare e i restanti 10 euro sul trattamento accessorio. L'aumento medio a regime per il settore sarà del 3,2%, chissà se avremo maggiori dettagli anche su queste cifre alle 17.30 nella conferenza stampa del ministro della funzione pubblica Renato Brunetta. Il governo non avrebbe in cantiere una misura di detassazione delle tredicesime come chiesto da parte delle imprese e dei sindacati per rilanciare i consumi e l'economia. La finanziaria è praticamente chiusa. Con il decreto di quest'estate, ha risposto il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, interpellato dal nostro Vincenzo Miglietta. Guardate, la finanziaria è sostanzialmente finita, chiusa, è già stata prodotta con il decreto 112. Noi abbiamo messo nel conto la detassazione di tutte le parti variabili del salario, quindi di tutto ciò che in azienda può essere ulteriormente erogato in aggiunta al salario contrattuale al lavoratore. Quella detassazione è molto importante e soprattutto se le parti faranno un accordo sul modello contrattuale sarà sviluppata nel prossimo anno, oltre che prorogata. L'importante è che parta una infrastruttura e una platea, una infrastruttura attraverso la quale veicolare più provvidenze a sostegno degli acquisti delle persone più deboli e dall'altra parte una prima platea di ultimi degli ultimi, di persone che si trovano in una situazione di bisogno assoluto. Si può partire anche con poco, quello che conta è partire con una strumentazione rivolta a una platea di cui si identifica il bisogno. I conti di Fiat, lo anticipavamo prima, poi approfondiremo anche i contenuti di questa trimestrale più tardi con Andrea Malani, inviato negli Stati Uniti del Sole 24 Ore. Il gruppo Fiat ha chiuso il terzo trimestre con un risultato della gestione ordinaria di 802 milioni di euro, circa l'8% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del 15° miglioramento consecutivo della redditività. Fiat considera gli scostamenti dalle normali condizioni di mercato attesi per il 2009 temporanei e conferma per questo gli obiettivi del gruppo per il 2010. Per quanto riguarda il prossimo anno, il Lingotto prevede un risultato della gestione ordinaria fra i 2,3 e 1 miliardo e mezzo di euro e un utile netto del gruppo fra 1,2 miliardi e 400 milioni di euro. Andiamo all'economia internazionale, i pignoramenti di abitazioni sono aumentati negli Stati Uniti del 71% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ad un livello record pari a 765.558 unità, secondo quanto riferito oggi da una società specializzata. Rispetto al secondo trimestre la crescita è stata invece del 3%. È stato un po' invece accolto male dal mercato il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che sono aumentate di 15.000 unità, quota 478.000. Infatti il dato è nettamente peggiore rispetto alle previsioni. Anche di questo parleremo più tardi. Il presidente francese Sarkozy ha annunciato oggi la creazione di un fondo pubblico di intervento che potrà intervenire massicciamente in favore di aziende strategiche in difficoltà. Questa nuova struttura, ha detto nel corso di una tavola rotonda, interverrà ogni volta che un'azienda strategica avrà bisogno di propri fondi. Si tratta di un'iniezione nel sistema economico francese che varrà all'incirca 175 miliardi di euro. Stabili oggi i tassi interbancari in euro sulle diverse scadenze. L'Euribor a tre mesi è sceso solo leggermente rispetto a ieri al 4,92% dal 4,94%. Abbiamo poi un calo record per gli attivi bancari mondiali nel secondo trimestre di quest'anno. Il totale degli asset del comparto bancario di tutto il mondo sono diminuiti del 3% a 39.069 miliardi di dollari, un crollo più che doppio rispetto al precedente record negativo che aveva visto un calo dell'1,2%, era stato fatto segnare nel quarto trimestre del 1998. Credit Suisse ha chiuso il terzo trimestre in perdita a causa delle svalutazioni che la banca è stata costretta a fare per la crisi dei mercati. Si tratta del secondo trimestre consecutivo in rosso per la banca svizzera dopo 5 anni di utili. Goldman Sachs è pronta a tagliare 3.260 posti di lavoro, lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Il ridimensionamento è pari al 10% del totale della forza lavoro della banca newyorkese. Andiamo ancora all'Italia. I consumatori non possono essere lasciati soli nel momento in cui si moltiplicano i provvedimenti a sostegno delle imprese. Lo ha affermato il presidente dell'ISVAP, l'autorità di vigilanza nel settore assicurativo Giancarlo Giannini, durante l'audizione in Commissione Finanze del Senato. Giannini ha detto che gli investimenti in Lehman Brothers valgono circa 1 miliardo e 600 milioni di euro nel settore delle polizze index linked e sono prodotti nei quali, ha detto, in linea di massima il rischio di investimento è a carico degli assicurati. Torniamo negli Stati Uniti. Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve, protagonista dell'economia americana fino al gennaio 2006, ha decisamente cambiato idea sulla finanza e i mercati. Dopo essere stato uno strenuo difensore del libero mercato applicato ai servizi finanziari e della capacità della finanza di autodisciplinarsi, l'ex banchiere centrale più potente della Terra oggi ha detto che la finanza deve essere sottoposta a controlli più rigidi. E sentite anche questa: c'è il rischio che i mercati finanziari globali possano sospendere l'attività per una settimana o per due, in quanto la situazione attuale è a tutti gli effetti di puro panico. Lo ha affermato oggi Noriel Rubini, l'economista che 2 anni fa predisse la crisi. Oggi ha parlato a Londra ad un convegno. Rubini ha spiegato che si verificherà una massiccia svendita di asset ed in questo contesto centinaia di hedge fund, cioè i cosiddetti fondi speculativi, dovranno chiudere i battenti. I rischi sistemici, ha detto ancora che Rubini, che insegna all'Università di New York, sono diventati via via più grandi, ma sentiamolo. La prima osservazione che voglio fare è abbastanza ovvia. Stiamo letteralmente vivendo la crisi finanziaria peggiore che gli Stati Uniti e le economie avanzate, e presto probabilmente anche i mercati emergenti, abbiano mai visto da moltissimo tempo a questa parte. È sicuramente la più grave crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione. Nonostante le azioni intraprese dalle diverse autorità nelle scorse settimane, sfortunatamente credo che le cose peggioreranno invece che migliorare. Dopo gli incontri del G7 e il vertice europeo, le cose sono andate un poco meglio, ma le buone notizie sono durate un paio di giorni. Ora siamo tornati a una situazione molto problematica. Penso che non si può dire che sia stato evitato del tutto il collasso del sistema finanziario. E Rubini non ha parlato solamente del rischio chiusura delle borse mondiali che stanno registrando appunto in certi momenti, lo raccontiamo anche noi, una vera e propria situazione di panico. Rubini ha anche sottolineato che la situazione sta peggiorando soprattutto per i mercati emergenti. Ci sono una dozzina di aree di questo tipo che si trovano in guai finanziari molto severi e Rubini ha anche sottolineato che anche un paese piccolo può avere un effetto sistemico sull'economia globale. Basti vedere la crisi dell'Islanda appunto quando quanto abbia preoccupato effettivamente il panorama finanziario internazionale. Peraltro, proprio oggi, i tassi interbancari nei paesi emergenti sono saliti ai massimi da 6 anni per via del fatto che la Bielorussia si è aggiunta all'Ungheria, all'Ucraina e al Pakistan nel chiedere aiuti al Fondo Monetario Internazionale. Cosa succede nell'Est Europa? Ce lo racconta adesso, ce lo spiega anzi Luca Pierazzi, responsabile della sede italiana di East Capital, che è una società di investimenti che gestisce un patrimonio di oltre 3 miliardi di euro investito proprio nei paesi dell'Est Europa. Dottor Pierazzi, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, non è una bella situazione neanche quella che vediamo in questi giorni in queste aree, che forse rischiano proprio per la loro natura di enfatizzare la crisi finanziaria internazionale. Parliamo molto dell'Ungheria in questi giorni, tra l'altro un paese che, andando completamente in controtendenza rispetto a come si sono comportate le altre banche centrali, ha dovuto aumentare i tassi di interesse per cercare di contenere la speculazione sulla divisa locale, per ridare anche un po' di fiato alla divisa locale. Ma in ogni caso vive una situazione piuttosto preoccupante. Dottor Pierazzi, cominciamo con il raccontare la situazione ungherese e poi magari le chiedo anche un commento sulle altre aree a rischio, una zona, quella dell'Est Europa, che per certi versi ha galoppato non poco negli ultimi anni dal punto di vista della crescita economica, che adesso rischia invece di frenare in maniera dirompente. Che dice? Dico che la frenata ci sarà sicuramente, è evidente che riverbererà sulle economie dell'Europa orientale tutto quello che stiamo vedendo nelle economie dell'Europa occidentale. Farei un passo indietro per spiegare come siamo arrivati a questo punto. La crisi dei mercati finanziari dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti è nata con l'ormai nota vicenda dei mutui subprime, che poi si è allargata ad altre forme finanziarie simili fino a coinvolgere anche la cartolarizzazione dei debiti delle carte di credito. Questo è successo più di un anno fa, stiamo parlando del maggio del 2007. Da allora i mercati finanziari hanno reagito e i mercati finanziari occidentali hanno cominciato a scendere, le borse in particolare hanno cominciato a scendere e la discesa non è ancora terminata. Nei paesi dell'Europa dell'Est, nei paesi dell'ex Unione Sovietica, invece, i mercati finanziari hanno continuato a crescere fino al maggio di quest'anno. I massimi raggiunti in Europa e negli Stati Uniti sono stati quindi del maggio 2007, i massimi nei paesi dell'Europa dell'Est nel maggio 2008. Questo perché? Perché i motivi della crisi dei subprime, che è nata negli Stati Uniti e si è diffusa poi nei bilanci delle istituzioni finanziarie dell'Europa occidentale, in realtà non ha toccato direttamente i paesi dell'Europa dell'Est. Le banche dei paesi dell'Europa dell'Est non avevano debito subprime nei patrimoni, i clienti non avevano investito in titoli di questo genere e quindi tutta l'economia dell'Europa dell'Est ha continuato a crescere senza essere toccata da questi eventi ancora per un anno. Aveva una cortina, insomma, di protezione che in qualche maniera ha reso quest'area immune dagli effetti della crisi. Poi che cosa è successo? Poi è successo che la crisi finanziaria ha assunto delle proporzioni tali da non poter lasciare fuori nessun'area del pianeta dalle conseguenze che questi prodotti finanziari hanno indotto nel sistema e quindi la crisi finanziaria si è allargata anche alle istituzioni finanziarie ai paesi dell'Europa dell'Est. Ecco, ma a quanto pare, da qualche analisi anche che leggo, dottor Pierazzi, la questione che a questo punto esce allo scoperto è che queste aree dell'Est Europa rischiano di pagare lo scotto più pesante della crisi, hanno subito gli effetti più tardi, hanno tentato di proteggersi, invece adesso addirittura qualche Stato sovrano rischia il crack. Com'è possibile che addirittura siamo passati ad uno scenario così potenzialmente drammatico? Poi magari mi dica lei se questo è possibile che si possa concretizzare. Ma allora, lo scenario è sicuramente serio, che sia drammatico è ancora da vedere. Il paragone che si fa in questi giorni tra il caso dell'Islanda e quello dell'Ungheria o dell'Ucraina è direi inappropriato, assolutamente inappropriato. Come è stato possibile? È stato possibile perché alcuni di questi paesi non hanno avuto una gestione della finanza adeguata e corretta. Il caso dell'Ungheria è il caso di un paese che ha un deficit alimentato, un deficit di bilancio pubblico eccessivo, che è stato sostenibile in tutta la fase di crescita, ma che diventa insostenibile nel momento in cui la crescita si arresta. Il caso dell'Ucraina, che è un altro dei paesi che sta attraversando momenti delicati, è diverso, perché il debito in questo caso è eccessivo, sì, ma non è il debito pubblico, è il debito privato. E attraverso questi meccanismi la crisi che abbiamo generato dei paesi occidentali si è trasferita ad alcuni dei paesi orientali. Dottor Pierazzi, c'è un altro aspetto anche interessante, per modo di dire, della crisi ungherese. È un paese in serie difficoltà anche perché in anni passati, in anni più felici, raccontava Federico Rampini, ma in realtà non è stata questa l'unica analisi che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, una parte della sua popolazione fu convinta a sottoscrivere mutui casa in franchi svizzeri, il cui rimborso rincara di giorno in giorno. Questo è un paese che tra l'altro attende l'ingresso nell'area euro, e questo magari potrebbe in prospettiva anche in qualche maniera poi contenere, no, e arginare la crisi delle famiglie che hanno sottoscritto mutui in valuta. Io racconto questo episodio in modo tale anche da scoraggiare chi ci ascolta e andare a ricercare tassi più convenienti altrove quando si tratta di acquistare una casa e fare il mutuo per l'acquisto della propria casa in valuta più conveniente. Secondo me, insomma, non perdiamo mai di vista quanto ci ha protetto l'euro in questi anni da situazioni pericolose, insomma, pesanti per il nostro paese. Ma in ogni caso, quanto è preoccupante questa questione per l'Ungheria, si aggiunge anche a tutte le altre questioni aperte? Beh, è preoccupante, molto preoccupante. Se così non fosse, il governo non sarebbe intervenuto. È intervenuto e ha convenuto con le banche la conversione dei debiti contratti dalle famiglie da debiti in valuta estera a debiti in valuta locale. Questo è un provvedimento estremamente importante perché chiude il rischio di cambio delle famiglie al livello al quale oggi le famiglie si trovano come indebitamento, e evita che la situazione possa ulteriormente degenerare. Sono fenomeni che abbiamo conosciuto anche noi negli ultimi 15-20 anni. Ricordiamo mutui in eco, prestiti in valute più o meno esotiche, via dicendo, che hanno effettivamente un rischio valuta importante, sottostante, ma che spesso i risparmiatori dimenticano, insomma, magari attratti dal fatto di potersi indebitare a 2, 3, 5 punti meno di quanto non si potrebbe fare con la valuta nazionale. Ultima notazione: non c'è dubbio che se 10 anni fa non avessimo fatto il possibile e l'impossibile per entrare nel sistema dell'euro, oggi ci troveremo sicuramente in una situazione terrificante. Se pensiamo che il debito pubblico in Ungheria è salito sopra il 60% del prodotto interno lordo e ha causato questo disastro, immaginiamo cosa succederebbe a noi se non fossimo nell'euro, col nostro più che 100% di debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo. Certo, dottor Pierazzi, c'è un ascoltatore che scrive: da quello che dite si spiega il caso Unicredit, perché le leggo questo messaggio al 349-238-6666, perché proprio da un vostro report spiega appunto come è costituito anche il sistema bancario ungherese, che è per l'85% di proprietà estera, e tra i quali appunto troviamo anche proprio due grandi colossi italiani che si sono, soprattutto Unicredit, appunto, sono cresciuti molto in queste aree negli ultimi anni. Mi chiedo, visto che lei queste aree le conosce molto bene, e che sono aree che tra l'altro hanno visto anche molte imprese italiane spostarsi per la loro produzione, quindi delocalizzare molto la loro produzione, che prospettive si aprono a questo punto e per le aziende italiane esposte direttamente in queste aree, perché lì hanno portato i propri impianti produttivi, e anche per il settore bancario italiano? Insomma, quanto dobbiamo preoccuparci di questo focolaio ungherese, di questi focolai che si stanno aprendo appunto nell'est Europa? Ma se ho ben capito la mail dell'ascoltatore, sostanzialmente sostiene di capire che la crisi di Unicredit, di capire adesso la crisi di Unicredit, dandone quindi la responsabilità a quanto avviene nell'Europa dell'Est. Il meccanismo è il contrario, nel senso che in tutta l'Europa dell'Est, né Unicredit né le altre banche italiane non che hanno investito, hanno accumulato sofferenze, perdite e via dicendo. È vero il meccanismo contrario: quando una banca internazionale, che sia di origine italiana o francese o altro, entra in crisi, ha dei problemi di liquidità, ha bisogno di stringere i propri prestiti alla clientela e via dicendo, lo fa dappertutto e lo fa anche nelle partecipate, e quindi chiude i rubinetti in Ungheria, chiude i rubinetti in Ucraina e in questi altri paesi. Il meccanismo quindi è inverso, è così che si trasmette la crisi dall'Occidente all'Oriente. Questi paesi stanno crescendo ancora nel 2008 a tassi del 2, 4, 6, 8%, quindi stanno ancora generando cassa, ricchezza per le aziende italiane, anche bancarie, che hanno investito là, non viceversa. Quindi insomma, come dire, preoccupiamoci sì, ma dati i tassi di crescita che ci sono, al momento possiamo anche permetterci di abbandonare un'ipotesi di scenario peggiore, dottor Pierazzi? Lei che investe molto in aziende che sono direttamente del posto, come la vede? Ma no, la risposta è no, anzi occupiamocene, più che preoccuparcene occupiamocene, questi rischi vanno immediatamente affrontati, vanno immediatamente contenuti. In questo caso la crescita sicuramente diminuirà, ma rimarrà una crescita nella media largamente positiva, e questi paesi saranno in grado di superare, talvolta con l'aiuto della Banca Centrale Europea, talvolta con l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, di superare queste difficoltà. Un effetto positivo da questo punto di vista ci sarà, perché in molti di questi paesi il processo di riforme istituzionali e di riforme dei mercati si è un po' fermato negli ultimi anni, grazie alla grande crescita economica e delle borse che si stava manifestando, che ha fatto illudere che si potesse, come dire, vivere di rendita. Oggi il Fondo Monetario Internazionale, dove interviene per sanare queste situazioni, per dare equilibrio finanziario ai paesi, chiede che venga rimesso in moto questo processo virtuoso di riforme istituzionali, riforme dei mercati e via dicendo. Certo, questa è una conseguenza positiva, avremmo fatto volentieri a meno di vedere tutta questa crisi, però questo è l'aspetto sul quale poi si fonderà la ripartenza di infatti paesi. Che non sappiamo probabilmente quando avverrà, forse non è esattamente dietro l'angolo. La ringrazio dottor Pierazzi per essere stato con noi, responsabile della sede italiana di East Capital, tra l'altro l'ho anche trascinata oltremodo al di fuori del tempo massimo, comunque grazie per la sua analisi e buona serata, presto, buon lavoro. Buonasera. Ci ritrovati in diretta, sono le 17.42, fra qualche minuto per la verità abbiamo un'altra pausa per i suggerimenti per chi è in viaggio, però abbiamo tutto il tempo intanto per farvi il quadro conclusivo della seduta in Europa, che vede Parigi in rialzo dello 0,38%, Francoforte perdere più di un punto, Londra più 0,7%, insomma qua davvero la schizofrenia impera, i listini finanziari non hanno più neanche il coraggio di avere un atteggiamento uniforme, S&P MIBA Piazza Affari, per non saperne leggere né scrivere, chiude in leggero ribasso, MIP del meno 0,20, S&P MIB meno 0,15%, mentre all'insegna del rimbalzo Wall Street, che già sta però affievolendo i guadagni che metteva a segno un'oretta fa. Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, andiamo subito a caccia di casi interessanti a Milano. Il miglior titolo, Lottomatica, più 6,41%, per la verità non è partito subito così bene, ma mi chiedo che cosa sia successo, se sia l'attesa per questo super montepremi che questa sera è in palio con il Super Enalotto, ma non credo che siano queste le ragioni che hanno portato oggi a questo balzo del titolo. Beh, certamente c'è anche questo fattore emozionale, il Super Enalotto non è gestito dall'Ottomatica, ma sicuramente l'euforia di queste settimane contagia anche tutto il comparto dei giochi, e gli analisti e le sale operative sottolineano inoltre che il titolo ha comunque beneficiato del rafforzamento del dollaro nei confronti dell'euro. Il biglietto verde oggi ha raggiunto un massimo degli ultimi 20 28 mesi a 1, cioè scambiando un euro è andato fino a 1,2724 dollari, e ovviamente l'automatica, che è molto esposta sul mercato statunitense attraverso la controllata GTEC, ha beneficiato di questo rafforzamento. Inoltre, verso metà novembre sono previste scadenze importanti, da una parte la pubblicazione dei conti trimestrali, e gli analisti cominciano a fare i calcoli e prevedono una tenuta del buon andamento del primo semestre, e d'altra parte, sempre attorno alla metà di novembre, è atteso l'esito della gara per la gestione delle lotterie turche, che vede proprio la partecipazione di Lottomatica, tutti i fattori che hanno spinto il titolo alla rialza. Vedo tra gli altri rialzi che praticamente, tra l'altro, ci sono stati soprattutto nella seconda parte della seduta, quelli piuttosto forti di Enel ed Eni, che chiudono con progressivamente un rialzo del 4,29% e del 2,97%. A metà strada troviamo anche il progresso di Terna del 3,29%. E torniamo con Paolo Paronetto di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, casi del giorno di borsa. Abbiamo già spiegato quello che è successo sull'Lottomatica, abbiamo preannunciato anche di raccontare quello che è accaduto oggi su Enel, su Eni, anche su Terna se vogliamo, perché comunque insomma abbiamo qua la rosa dei titoli del settore a 360 gradi energetici. È stato merito del petrolio, Paolo, questa tendenza? Sì, certamente ha beneficiato il rialzo dei prezzi del petrolio, che dopo lo scivolone di ieri per quanto riguarda il WTI è tornato ad avvicinare quota 69 dollari al barile. Questi titoli, che come ricordavi tu, sono scattati soprattutto sul finale della seduta sulla scia del rialzo messo a segno da Wall Street, hanno quindi guadagnato la testa dell'S&P. Beni è salita di quasi il 3% a 16,35 euro, mentre Enel è salita di oltre il 4% raggiungendo i 5,3 euro. Ricordiamo che tutti questi titoli avevano perso molto nelle ultime sedute, e quindi anche appunto in occasione del rialzo del prezzo del petrolio gli investitori ne hanno approfittato per ricoprirsi, riprendendo posizioni nel prezzo del petrolio, tra l'altro spinto al rialzo dall'attesa per la riunione dell'OPEC, che domani dovrebbe decidere un taglio della produzione. Seat pagine gialle più 2,69, la ex autostrade più 1,69%. Paolo. Una nota positiva anche per Atlanti, l'ex autostrade è attesa a breve la modifica annunciata la settimana scorsa dal ministro Altero Matteoli della normativa introdotta 2 anni fa dal governo Prodi in tema di concessioni, una normativa che era sempre stata osteggiata dalle società autostradali, e quindi mentre si avvicina alla sua cancellazione i titoli tornano sotto i riflettori. Oggi tra l'altro l'amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, ha spiegato nel corso di un'audizione alla Camera che ci sarà un impatto marginale pari all'1% sul totale delle tariffe del nuovo piano gallerie, che prevede la messa in sicurezza delle gallerie sulla base della normativa comunitaria. Il peggior titolo della seduta è stato Prismi, hanno avuto anche delle lunghe sospensioni, meno 13% sul finale, seguito in pregilo meno 6%, il Banco Popolare meno 6%, Finmeccanica meno 5,76%. Paolo, sui casi peggiori abbiamo l'imbarazzo della scelta per spiegare appunto le ragioni di queste tendenze. Altri due titoli hanno perso il 5% abbondante, Alleanza e la Popolare di Milano. Paolo. Certo, in particolare parlerei di Finmeccanica, che oggi appunto ha perso il 5,76% chiudendo circa sui 9 euro per azione. Ieri la società ha completato l'acquisizione della statunitense DRS Technologies per 5,2 miliardi e i prezzi di borsa cominciano ad allinearsi a quelli che saranno i prezzi dell'aumento di capitale lanciato proprio per finanziare l'operazione, l'aumento di capitale che avverrà a 8 euro per azione. Quanto invece ai titoli bancari che tu hai citato, il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano sono stati tra i peggiori della seduta, sul settore continuano ad alleggiare i timori che hanno caratterizzato le ultime settimane. Proprio queste due banche, tra le altre, erano quelle indicate come possibili, come tra quelle che potrebbero aver bisogno di un aumento di capitale visto il livello di coefficienti patrimoniali, eventualità smentita da entrambe le banche, ma sul mercato continuano a girare le voci. E infatti Italcementi meno 4,31, Saip meno 4, Mediaset meno 3,29%, Mondadori meno 3,27, L'Espresso meno 3,11, quindi giornata negativa anche per il settore di. Andiamo ad Unicredit, che perde il 2,83% solo sul finale, vedo che riesce a recuperare i 2 euro oggi persi al di sotto di questo livello, credo che Unicredit dalla quotazione forse non fosse mai arrivata. Paolo, ti faccio sentire cosa ci ha detto in questo piccolo flash oggi Alessandro Profumo, l'amministratore delegato, ai giornalisti che a Roma gli chiedevano un commento sull'andamento del prezzo dell'azione. Che sono particolarmente liquide come la nostra, io credo che non sia diciamo, corretto guardare il prezzo del titolo tutti i giorni. Probabilmente Profumo ha ragione, ma oggi che cosa è successo di particolare che ha portato Unicredit al di sotto di questo livello strategico, immagino, anche psicologicamente parlando, molto importante, Paolo? Certo, non c'è stata su Unicredit nessuna notizia particolare. La società continua a essere tra le più bersagliate del comparto proprio sui timori di cui parlavamo anche prima, nonostante sia stata l'unica al momento in Italia a varare un'operazione di ricapitalizzazione. Nei giorni scorsi alcuni report di alcune banche affari statunitensi avevano comunque fatto intravedere la possibile necessità di ulteriori rafforzamenti, comunque smentiti dalla società, ma oggi direi che proprio la notizia è stata quella che il titolo è sceso per la prima volta sotto la soglia dei 2 euro, appunto per la prima volta dal 98, cioè da quando la società è nata dalla fusione tra il Credito Italiano e le casse di risparmio. Un momento quindi storico, anche se sul finale il titolo ha rialzato la testa e ha chiuso sopra la soglia dei 2 euro per azione a 2,026. Anche Fiat oggi ha avuto una bruttissima giornata, anche se poi ha notevolmente arginato le perdite sul finale, chiudendo a meno 2,49, 6,29 euro. Il titolo è arrivato a perdere più del 6%. Dei conti di Fiat parleremo nella seconda parte della trasmissione. Io intanto ringrazio e saluto Paolo Paronetto di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. C'è un ascoltatore che ci chiede come mai oggi in borsa si è registrato questo tonfo di Mariella Burani, peggior titolo in assoluto, meno 13,62%. Per la verità, le notizie che hanno riguardato il gruppo non sono per niente negative, perché entra un fondo sovrano, quello di Abu Dhabi, la società appunto che opera fondamentalmente nel settore degli hotel, nei resort di lusso, entrerà nella holding della famiglia Burani con il 30%, e da qui in avanti poi la prospettiva che si apre, mi pare di capire, sia un delisting per la società. Effettivamente un delisting in genere preannunciato porta ad una crescita in borsa, ma oggi questo non si è verificato. In ogni caso, noi per adesso lasciamo la borsa italiana, andiamo a vedere oggi quali sono le notizie che invece sono arrivate dalla Francia. E buonasera da Attilio Geroni, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Attilio. Buonasera a voi. Allora, visto che si parla tanto di fondi sovrani in questo periodo, in realtà qualcuno ha paragonato l'iniziativa preannunciata dal presidente francese Sarkozy proprio alla creazione di un fondo sovrano. In realtà questo fondo pubblico di intervento non ha la natura di fondo sovrano, perché i fondi sovrani dei paesi orientali in particolar modo hanno una natura che arriva proprio da forti surplus commerciali. In realtà Sarkozy ha tutta un'altra intenzione. Che cosa ci puoi dire di più rispetto a questa iniziativa della Francia, Attilio? In realtà questo fondo di intervento pubblico in parte esiste già, ed è la Cassa dei Depositi francese, che è stata già utilizzata come investitore strategico stabile di lungo termine in tutta una serie di società quotate al CAC 40. Si tratta di dotare di un fondo più ampio questa Cassa dei Depositi, che sarà lei stessa a gestire questo nuovo fondo, ed è comunque un meccanismo di difesa. I fondi sovrani vanno all'attacco, vanno all'estero. Ecco, questo fondo, nel caso di necessità di un'impresa sotto la minaccia di un'opa ostile da parte di qualche fondo sovrano o di investitori indesiderati, prende una partecipazione strategica acquisendo una minoranza di blocco. Diciamo che la Cassa dei Depositi è già stata all'opera con la ricapitalizzazione recente di Dexia, la banca franco-belga, quindi ha investito 2 miliardi di dollari di euro, scusate, e assieme allo Stato francese detiene una minoranza di blocco del 25%. Quindi è una struttura che esiste già, va potenziata. Ovviamente le nuove risorse andranno reperite sul mercato dei capitali, quindi immagino che questa Cassa dei Depositi per il fondo andrà sui mercati obbligazionari emettendo titoli. Quindi al momento lo Stato si impegna in 3 anni a mettere sul piatto, mi pare, 175 miliardi di euro, no? Allora, per quanto riguarda gli investimenti diretti, sì. Si tratta di investimenti in infrastrutture fisiche e anche immateriali, cioè canali, trasporti pubblici, nuove ferrovie, e poi anche investimenti nella cosiddetta economia digitale, diffondendo l'internet ad alta velocità e diffondendo anche l'internet, i collegamenti in fibra ottica. Quindi la priorità, ha detto Sarkozy, per i prossimi anni delle politiche di bilancio è quella dell'investimento. Quindi ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma economico Sarkozy ha detto la dittatura dei mercati è finita, e se una dichiarazione del genere viene dal leader della Francia siamo di fronte a una svolta proprio di politica economica. E comunque insomma una svolta che ci pare fosse già nei numeri, poi a prescindere dagli interventi dei governi che tutto sommato, va ammesso, sono solo assolutamente recenti. Attilio, grazie molte per essere stato con noi, tanto su questi temi torneremo ad aggiornarci anche nelle prossime edizioni del Giornale Radio nei prossimi giorni, di nuovo con Focus Economia. Ancora buona serata da Deborah Rosciani per la seconda parte di Focus Economia, nella quale avremmo voluto raccontarvi l'esito degli incontri di oggi relativi al mondo sindacale e ovviamente anche al mondo del governo per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, ma al momento non abbiamo ancora molte indicazioni che arrivano da Roma, dove è in corso la conferenza stampa del ministro della funzione pubblica Renato Brunetta. In ogni caso oggi l'ARAN, che è l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha proposto l'aumento medio mensile per gli statali, su indicazione del governo, di 70 euro a regime, di cui 60 sul salario tabellare e i restanti 10 sul trattamento accessorio. L'aumento medio a regime per il settore sarà dunque di circa il 3,2%. Come ha reagito il mondo sindacale? Ancora strade differenziate, per la verità una situazione che abbiamo già visto. Per il momento solo la CISL avrebbe aderito al protocollo di intesa proposto appunto dal ministro Brunetta sugli aumenti e il nuovo modello di contratti. La UIL si è riservata di esprimere un giudizio, la CGIL ha fatto sapere già di essere contraria. Il segretario generale della CISL, il settore del pubblico impiego, Rino Tarelli, ha detto che è stato illustrato ai sindacati un documento sul quale c'è stata una valutazione positiva da parte appunto del sindacato. L'impostazione è utile, ha detto Tarelli, abbiamo dato la nostra disponibilità ad un impianto da percorrere che apre una fase che andrà realizzata e giudicata sui fatti concreti. Nei prossimi GR naturalmente vi aggiorneremo anche sulla conferenza stampa del ministro Brunetta. Noi invece adesso andiamo a parlare della fiducia delle imprese nel nostro paese. La fiducia di imprese e consumatori in Italia crolla, questo non dovrebbe stupirci, una tendenza ormai in atto da tempo, crolla in Italia, anche nell'Unione Europea, raggiungendo nel terzo trimestre dell'anno i valori minimi dalla fine del 1993. Sono i dati dell'ISAE, l'Istituto di Studi e Analisi Economica, contenuti nel nuovo rapporto Congiuntura Mezzogiorno. Si tratta di un focus su 8 regioni appunto del Mezzogiorno del Sud Italia, che verrà diffuso domani, ma ne abbiamo già avute alcune anticipazioni. In questo rapporto per la prima volta l'Istituto pubblica i dati sul clima economico, un indicatore basato sulle inchieste svolte appunto su imprese e consumatori. Paola Nania ha intervistato il presidente dell'ISAE, Alberto Maiocchi. Sono 8 regioni in cui individuiamo il clima economico generale e la fiducia nei diversi settori, consumatori, imprese, servizi di mercato, costruzioni e così via. Quindi il rapporto, questo rapporto è dedicato al Mezzogiorno d'Italia? A 8 giorni del Mezzogiorno d'Italia. Cos'è il clima economico? Come riuscite a definire il clima economico di imprese e consumatori nel rapporto? Cioè, l'idea è quella di fare un indicatore sintetico che tenga conto simultaneamente di quello che risulta dalle nostre inchieste sulla fiducia delle famiglie e sulla fiducia delle imprese. È un indicatore che viene utilizzato a livello dell'Unione Europea e adesso noi l'abbiamo per la prima volta valutato a livello nazionale e a livello delle singole aree. Qual è allora il clima economico a livello italiano, parlando appunto a livello italiano, a livello nazionale nel terzo trimestre? Gli indicatori sono a un livello molto basso, pari al minimo raggiunto nel 1993. C'è un elemento che vorrei anticipare, che non è un elemento quantitativo, ma comunque ci sembra rilevante. Noi abbiamo inserito nell'inchiesta sulle imprese per la prima volta una domanda alle imprese sulle restrizioni di credito, cioè il rischio di credit crunch di cui si parla spesso. Ecco, è una domanda che ripeteremo anche nei mesi successivi. Le prime indicazioni sono che al momento non ci sono segnali di forti restrizioni di credito da parte delle banche nei confronti delle imprese. Questo è un elemento importante per valutare l'evoluzione della crisi del settore produttivo. Intanto abbiamo oggi delle dichiarazioni anche che arrivano dal premier Silvio Berlusconi, che è in visita in Cina del primo ministro cinese, appunto, Wen Jiabao. La crisi economica mondiale è stato uno dei temi al centro di questo incontro. Soprattutto con questa crisi nei mercati finanziari globali del mondo, ha detto Berlusconi, da parte di tutti i paesi si sta ragionando sul fatto che forse è necessario un fondo, un istituto per il controllo continuativo della crisi economica mondiale. La crisi finanziaria è stata superata, presto si uscirà anche dalla recessione, di questo si è detto convinto Berlusconi. Tra l'altro in Cina ha incontrato, appunto, a Pechino oltre 200 imprenditori italiani, e Berlusconi ha esposto una visione ottimistica della situazione, ha raccontato uno degli imprenditori che ha partecipato all'incontro, e si è mostrato convinto che riusciremo a superare la crisi economica. Naturalmente lo speriamo tutti. Nel frattempo, però, visto che in apertura di Focus Economia abbiamo parlato anche della forte difficoltà in cui a questo punto si stanno trovando alcune aree emergenti, c'è da registrare che la Banca Centrale del Messico è intervenuta per la terza volta nella settimana nel mercato dei cambi, offrendo $1,000 milioni, e cioè $1 miliardo, per frenare il deterioramento della quotazione della divisa locale, del peso. L'intervento è più radicale di quello anticipato nei giorni scorsi, quando la Banca Centrale, appunto, aveva reso noto di voler mettere a disposizione, se necessario, $400 milioni al giorno. Gli esperti hanno sottolineato che negli ultimi due mesi il peso messicano ha perso il 40% del suo valore, nonostante gli sforzi dell'Istituto Centrale di Emissione, che ha utilizzato $13 milioni delle riserve per contrastare questa tendenza. Insomma, una situazione simile l'abbiamo vista anche per l'Ungheria, parlandone nella prima parte di Focus Economia. Ed eccoci tornati a Focus Economia. Allora, oggi, per quello che riguarda il settore auto, è stata di nuovo una giornata densa di notizie. Forse la più preoccupante, tanto per cambiare, per la verità, La comunicata General Motors negli Stati Uniti, che ha fatto sapere di essere a questo punto costretta a tagliare i costi di nuovo come conseguenza della crisi del mercato automobilistico. Ma la cosa preoccupante è che ha annunciato la sospensione dei contributi che l'azienda versa sui fondi pensionistici. I contributi cesseranno il 1 novembre prossimo. Oltre a questo, saranno sospese anche contribuzioni legate ad altri programmi specifici a favore del personale. GM avrebbe anche intenzione di favorire l'uscita dall'azienda di almeno 5.000 addetti entro il 1 novembre, quindi in pochissimi giorni, attraverso incentivi all'esodo. Daimler, il colosso automobilistico tedesco, ha riportato un utile nel terzo trimestre di quest'anno di €213 milioni, un risultato largamente inferiore alle stime, e a causa dell'aggravamento della situazione nel settore automobilistico si appesantiscono anche i tagli che sarà costretta ad operare la svedese Volvo, che ha deciso di procedere alla soppressione di altri 850 posti di lavoro, oltre ai 1.400 già decisi solo poche settimane fa. Chissà invece dal versante Fiat cosa ci dice Andrea Malan, inviato negli Stati Uniti per il Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Ho la vaga sensazione che tu abbia appena terminato di sentire la conference call, probabilmente, che l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha tenuto, appunto, poco fa. Allora, guardi, non anticipo niente dei numeri, dici tu gli aspetti più significativi della trimestrale del Lingotto, e perché l'ha presentata negli Stati Uniti, Andrea? Dunque, il viaggio negli Stati Uniti, che insieme all'intero consiglio di amministrazione fa parte di una politica del gruppo di accentuare, appunto, l'internazionalizzazione del gruppo. Il CDA si è tenuto alla sede qua americana della Case New Holland, che è la divisione che produce macchine agricole e movimento terra, che è una delle tre importanti divisioni del gruppo insieme all'auto e ai camion di Iveco. Per quanto riguarda i risultati, è difficile condensarli. Il terzo trimestre 2008 è andato ancora discretamente, cioè con aumenti sia dei ricavi più 3% che del risultato di gestione più 7% che dell'utile netto più 3%. In sostanza, l'ottimo andamento ancora in Brasile, l'ottimo andamento di Ferrari e Maserati e di Case New Holland, soprattutto per quanto riguarda la parte macchine agricole, hanno compensato il forte peggioramento della congiuntura in Europa e un rallentamento di Iveco. Risultati, insomma, non male, ha commentato Marchionne, per un trimestre di questo tipo. Il problema è, guardando al futuro, nel futuro ci sarà un quarto trimestre, quello già iniziato, che vedrà un ulteriore calo della domanda di auto in Italia e in Europa, un rallentamento della crescita sul mercato brasiliano e un addensamento di nubi anche per quanto riguarda Case New Holland e Iveco. A maggior ragione questo addensamento di nubi si apre il 2009, dove hanno detto gli uomini Fiat è veramente difficile fare delle previsioni, non sarà un anno normale, ha detto Marchionne, quindi è comunque molto difficile fare previsioni. Forse è per questo che Fiat, a differenza di Daimler, non ha lanciato un cosiddetto profit warning, un allarme o una correzione sulle stime di utili, ma si è limitata a enunciare uno scenario, anzi due scenari, di cosiddetto worst case, cioè il caso peggiore. Se la domanda calasse del 10 o addirittura del 20% l'anno prossimo rispetto al 2008 in tutti i settori contemporaneamente. Quindi in sostanza hanno fatto sapere di prendere in considerazione ogni ipotesi possibile, anche la peggiore, ma tra l'altro oggi, scusami se ti ho interrotto brutalmente Andrea, prego. Era una questione anche che ci aveva incuriosito un po' questa mattina quando cominciavano dalle agenzie ad essere diramati i dati di Fiat. Lingotto appunto ha proprio deciso di fornire un aggiornamento ai mercati finanziari su base trimestrale circa la performance attesa per il 2009. Questa è un'ulteriore testimonianza di quanto questo anno, il prossimo anno, venga effettivamente considerato cruciale, no, per i destini nell'immediato dell'industria automobilistica mondiale. Assolutamente, Marchionne tra l'altro ha detto che è convinto che questa crisi innescherà un processo di consolidamento. Abbiamo visto in questi giorni le trattative GM Chrysler, hai raccontato tu gli ulteriori provvedimenti che le varie case automobilistiche stanno prendendo. Marchionne ha detto che Fiat è pronta a partecipare, dovrà cogliere le occasioni che eventualmente venissero fuori da questo processo di consolidamento. Nel frattempo quello che sta facendo il gruppo per fronteggiare la congiuntura è in sostanza utilizzare i meccanismi ordinari, tra virgolette, di gestione, e cioè in particolare per l'Italia e per l'auto la cassa integrazione. Marchionne si è detto fiducioso sul fatto che se la domanda andrà come si spera, cioè non in base allo scenario peggiore ma con un calo relativamente contenuto, sarà possibile continuare a utilizzare semplicemente questo strumento senza andare su strumenti più pesanti come stanno facendo per esempio qua negli Stati Uniti, cioè chiusure di impianti. Gli è stata fatta una domanda specifica da un analista nella conference call e ha detto non c'è nessuna chiusura sul tavolo in questo momento. A proposito di chiusure, non è esattamente forse questo il termine da utilizzare, c'è però uno slittamento per esempio per quello che riguarda il raggiungimento degli obiettivi delle 300.000 unità vendute in Cina, ma Fiat deve rinviare anche i progetti per riportare l'Alfa Romeo sul mercato degli Stati Uniti, Andrea. Beh, questo sicuramente è l'effetto di due fattori. Uno, che permette sicuramente di risparmiare costi in un momento difficile, e l'altro è che, data la congiuntura attuale sul mercato americano, sarebbe poco astuto, per usare una parola di Marchionne, entrare proprio in questo momento. Quindi diciamo che si prendono due piccioni con una fava e si rinvia la cosa. Per quanto riguarda la Cina, il problema sicuramente c'è, il problema era noto diciamo da tempo, è stato solo formalizzato questo taglio agli obiettivi, e deriva dal fatto che Fiat si è liberata di un partner che non andava bene, cioè la Nanjing, e sta tuttora cercando di chiudere con Chery e o con un altro partner. Quindi la cosa in Cina sembra abbastanza ancora da definire, per cui questo taglio certo è significativo, da 300.000 a 50.000 unità come target. Si vedrà poi da qui al 2010 cosa succederà e soprattutto cosa riuscirà appunto a fare Fiat in termini di alleanze su quel mercato che resta molto importante. Lasciamo i nostri ascoltatori con una buona notizia: Fiat comunque non ha intenzione di tagliare i dividendi, anche se oggi il titolo in borsa è stato piuttosto ballerino, è arrivato a perdere più del 6%, invece ha chiuso poi con un ribasso di 2,5 punti. Andrea. Certo, beh, ovviamente il non taglio di dividendi è molto importante per gli azionisti. L'andamento in borsa, i vertici del Lingotto l'hanno ribadito più volte, non ha attualmente molto a vedere con quelli che sono i fondamentali. Marchionne ha ricordato che come per il 90% delle società quotate, diciamo, a parte le banche. Sì. Lui ha ricordato che il titolo vale adesso più o meno quanto valeva adesso che guadagna, quest'anno guadagnerà 3,4 miliardi come utile netto il gruppo, e vale adesso il titolo come quando ne perdeva 3, quindi diciamo che è ovvio che la borsa guarda al futuro, quindi la borsa probabilmente cerca di immaginare quali saranno gli scenari per il 2009 e oltre, però certo fa un'impressione fare questo confronto. Ecco, ti lascio Andrea, solo 30 secondi, ma ti è sembrato, dalla sensazione che hai avuto lì vivendo questa giornata personalmente a contatto con i vertici di Fiat, che questo worst case per il 2009 si potrebbe anche concretizzare, o comunque hanno espresso più un orientamento ottimista da questo punto di vista i vertici Fiat? No. Di ottimismo non è il caso di parlare. Marchionne ha detto chiaramente che secondo lui la probabilità dello scenario peggiore, cioè calo del 20%, è zero. Quello del 10% diciamo che è un po' più probabile, nel senso che il 10% a livello di tutti i settori probabilmente non si verificherà, potrebbe però verificarsi un calo un po' maggiore per l'auto, per esempio un po' minore in altri settori. Diciamo che una media del 10% ci sta. Sarebbe, e i calcoli per questo vedrebbero un... per sintetizzare, un calo dell'utile netto attorno ai 2 miliardi rispetto ai 3,4 di quest'anno, quindi una cosa rilevante ma non disastrosa, sarebbe pur sempre un utile netto di 2 miliardi. Insomma, abbiamo conosciuto Sergio Marchionne come un uomo che tendenzialmente ci azzecca, speriamo che ci azzecchi anche questa volta. Grazie ad Andrea Malani, inviato negli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, a seguire i lavori della presentazione della trimestrale Fiat. Noi ci fermiamo perché Focus Economia termina qui, grazie a tutti per essere stati con noi, ci sentiamo domani alle 12 con Salva Danaio, parliamo di obbligazioni di Lehman Brothers e poi mi dispiace per voi anche domani sera alle 17 con Focus Economia da Deborah Rosciani. Buona giornata, buona serata a tutti.